Mix 24 di Giovanni Minoli. Buongiorno, bentornati su Mix 24 e buongiorno al presidente Romano Prodi, cui ultimo libro, Il piano inclinato, appena uscito per l'edizione del Mulino, fa molto discutere. Ecco, presidente Prodi, la società del 3% dei ricchi è una società che non scopriamo oggi, però oggi qualcosa è cambiato in questi tempi per cui questo divario sembra nuovo. Perché? Ma intanto buongiorno a tutti. La spiegazione a me sembra semplice. Prima di tutto, da un lato, le differenze sono diventate insopportabili. Si diverge fino al punto di rottura. Dall'altro lato si è scoperto che distruggendo la classe media si ostacola anche la crescita. Prima ci avevano detto ma la disparità serve per crescere tutti, la curva di Laffer eccetera. Adesso ci si accorge che non è vero. Senta, presidente, tecnologia, finanza e globalizzazione, per un po', appunto, in questa logica anche che dice lei, sono andati a braccetto per 20 anni, 25, poi però si è rotto qualcosa. Che cos'è che si è rotto? Questa fiducia cieca? No, lei dice sono andati a braccetto, sì, fino a un certo punto, ma poi la finanza è data per conto suo. La finanza non è più uno strumento, ma è diventata uno strumento, cioè per muovere l'economia, sì, eccetera, ma è diventata fine a se stessa. Un mondo allora, a parte. Ci si accorge che non serve più a sviluppare, ma a fare più ricco un gruppo di ricchi. Sì. E questo è un elemento sociale di rottura, non è solo un cambiamento economico, capisce? Certo. Ecco, presidente Prodi, ma i perdenti della globalizzazione, appunto, fanno una domanda semplice, ma giusta. Perché le elite non ascoltano? Non c'è anche un interesse a capirlo, questo problema? Perché, vede, soprattutto dopo la grande rivoluzione intellettuale della Thatcher e di Reagan, non solo le elite, ma anche gli elettori hanno per 30 anni pensato che sarebbero stati tutti vincitori da questo grande arricchimento di alcune categorie. Sì. Pensi che la maggioranza degli elettori ha in molti casi votato in favore della diminuzione delle imposte all'1% più ricco. Allora, certo. Si è creata questa strana situazione in cui chiunque parla di tasse perde le elezioni, anche di chi parlasse di tasse convenienti per le persone meno ricche. Ci arriveremo. Ecco, presidente, però si parla anche tanto, tantissimo, troppo, anche a sproposito, secondo me, di populismo. Però non si sa bene che cos'è, perché poi alla fine si identifica spesso con i nazionalismi. No, populismo sì, si può identificare con il nazionalismo, ma c'è una definizione, secondo me, molto precisa. Cioè è il votare, è il lavorare contro tutti, è il dichiarare contro tutti, è prendere posizione contro tutto quello che è presente, senza però bisogno di proporre ricette coerenti, no? Cioè il populismo ha bisogno di non avere una dottrina, è interessantissimo. Deve ripudiare ogni radice di sinistra o di destra. Se il populismo mantiene una radice come quella di Le Pen padre, sì, arriva fino a un certo punto. E poi si ferma, certo. Se invece fa come la figlia, che sostanzialmente non è né di destra né di sinistra, esplode perché critica l'esistente. Ecco, senta, presidente, Renzi ogni giorno in modi diversi comunque attacca la politica europea. E in questo mi sembra molto lontano da Macron, che fa suonare l'inno della gioia sulla piazza del Louvre la sera della sua vittoria alle presidenziali. È così? Beh, certo. Macron ha vinto in un modo inaspettato, no? Con un europeismo esplicito. Questo è un fatto nuovo. Esplicito e quasi radicale. Sì. Ah, certo, certo. Ha usato l'Europa come bandiera. Sì. Vediamoci, molte delle critiche di Renzi all'Unione Europea sono giustificatissime. Errori, sì, errori sono giustificati, no? Quasi tutti i leader europei le hanno a volte usate anche con esagerazioni. Macron ha rovesciato il gioco. Certo. E le strategie, io penso, poi alla fine fra Renzi e Macron non possono essere molto diverse perché i gradi di libertà sono limitati, certo, ma la tattica è completamente diversa. La tattica. E l'aspetto interessante è che l'aver preso l'Europa come bandiera sembra aver giovato. Certo, è la novità. Molti in Gran Bretagna si stanno pentendo proprio con questa riflessione, molti che non volevano la Brexit, dicendo ma noi abbiamo criticato l'Europa, l'abbiamo resa ridicola, non era vero. Bisogna, si poteva criticarla dopo averla scelta in modo esplicito. Ecco. E infatti dopo le elezioni francesi però, e tantissimi, come sta dicendo anche lei, hanno tirato un sospiro di sollievo. Però a me sembra un po' prematuro. Mi sembra una prima fase. Beh, è arci prematuro, perché ci sono le elezioni politiche, le chiameremmo noi, no? Le elezioni parlamentari, certo, fra pochi giorni. Sta raccogliendo delle buone adesioni anche dopo le elezioni. Soprattutto bisogna notare che Macron ha fatto un governo con una squadra di ministri molto ben calibrata. Sì, un po' gollista, insomma. No, un po' tutto. Un po' tutto. Ma quando io dico calibrata è che ha messo una metà di uomini e di donne nuovi, sì, ma ha preso anche alcune persone di grande esperienza. Cioè, capito? Non ha disprezzato l'esperienza, non c'è stata rottamazione dichiarata, anzi. Esattamente, no? Ha usato anche il ferro vecchio quando questo era capace di tenere bene il sistema. Esatto. No? Uomini come Bayrou sono preziosi in una, hanno esperienza. Un paese, capisci? Senta, adesso l'osservato speciale naturalmente è diventata l'Italia. Che rischi stiamo correndo o facciamo correre? Insomma, c'è una troica all'orizzonte o no? Ma dipende da noi. Dipende da noi, perché siamo, se lei mi dice se siamo un osservato speciale, sì, dico di sì, certo. Tutti guardano a noi, tutti i giornali della finanza internazionale, i media e i politici dico adesso vediamo l'Italia, quindi osservato speciale lo siamo. E come si può rimediare a questo? Non ecco. che si possa pagare il debito tutti in un colpo. Ma noi sto debito non è tardi per cominciare a diminuire il debito? No, non è mai tardi. Vabbè, si può sempre, dice. Non è mai tardi, voglio dire, io con il mio governo l'ho diminuito pesantemente, ben vigorosamente due volte. Però lei ha detto una cosa, scusi se la interrompo Presidente, nessuno può parlare di tasse, ma quale politico approverà un piano che in ogni caso dovrebbe prevedere una forte tassazione per ridurre il debito? Beh, non c'è mica solo la tassazione, prima di tutto lei, se si cresce il debito si riesce abbastanza a diminuirlo, è vero, anche senza grandi sacrifici, sì. Questa è la prima cosa. In secondo luogo, vede, c'è un problema che io adesso non mi prenda per uno che vuole sfuggire, ma non riesco a capire, ma davvero. Cioè, noi in questi anni abbiamo diminuito di alcune centinaia di migliaia di dipendenti pubblici, sì, non sono cresciuti gli stipendi e la spesa pubblica è aumentata. Dice dove? Cioè, come abbiamo fatto? Dire, miracolo! A sussidi saranno gli euro dati, saranno, non lo so, ma io constato questo. E allora io credo che non si può diminuire il debito con un miracolo, certo, ma con tante piccole tessere di intervento, come io dicevo con Cacciavite. Ma si riesce, ripeto, ma credo che siamo di fronte a 300-400.000 dipendenti pubblici in meno, sì, rispetto a 6 anni fa, 7 anni fa. Insomma, dire, quei soldi da qualche parte bisognerebbe recuperarli. Esatto. Ecco, questo è il punto. Esatto. Cacciavite è usato lì invece che per ridistribuirli in modo non costruttivo e progettuale per la crescita. Certo, questo è il messaggio, il messaggio da dare. Da dare. Senta Presidente, Berlusconi adesso ha fatto una proposta del sistema elettorale alla tedesca. Lei pensa che sia stata una mossa intelligente, possibile, astuta, va bene per noi? Cosa ne pensa? Ma guardi, il sistema alla tedesca è un nome straniero per una cosa ben semplice, cioè proporzionale puro. Il sistema tedesco è un proporzionale con un piccolo, con uno sbarramento come c'è dappertutto, sì. E solo l'assegnazione dei singoli parlamentari viene fatta secondo un sistema non proporzionale, secondo il vincitore del collegio, ma il numero dei parlamentari è assolutamente proporzionale. E quindi lei che dice? Io sono per l'assolutamente uninominale. Ah, quindi siamo agli antipodi, va bene. Ma se voglio andare in stabilità a sto povero paese, sì. Ma cerchiamo di avere un governo stabile. Allora era meglio se vinceva il sì che il no, al referendum. Forse sì, ecco, diciamolo. Si può dire. Beh, io con lungo pensamento... Infatti. Senta, lei immaginavo questo spaventamento. Esattamente. Lei dice, a proposito di come dire, di cacciaviti e viti da restringere o allentare, lei dice che bisogna riesaminare anche tutto il capitolo delle imposte di successione, cioè? Sì, certo, perché voglio dire, noi diciamo tutti i partiti. Bisogna mettere i cittadini nella stessa condizione di partenza, e è chiaro che un minimo di imposta di successione aiuta. Ma lei pensa che possa aiutare molto? No, molto no, ma bisognerà pure dare dei messaggi. Cominciare. Molto no, perché ci saranno evasioni, andata all'estero, ma soprattutto io nel mio libro propongo una cosa, dico... qui ci sono i giovani che soffrono. Infatti, parla molto. Mettiamo l'imposta di successione per i più ricchi, sì. E quello che ricaviamo, che penso non sarà molto superiore a un miliardo di euro, un miliardo e mezzo, sì. Lo diamo tutto alla scuola, alla preparazione, alla formazione professionale. Alla formazione professionale dei giovani. Ecco. No. Insomma, quei soldi per i giovani e il piano inclinato, infatti il suo libro questo lo dice bene. Ecco, ma le nostre grandi imprese, professor Presidente, sono quasi scomparse. Cosa è successo? Perché? Ma, due fasi storiche. Prima, con le privatizzazioni, il nostro capitalismo non si è dimostrato pronto a intervenire. Non ha assunto il rischio, mi ricordo. La privatizzazione della telefonia voluta dall'Europa, voluta dal governo, era faticosissima e è stata tutta una... Praticamente è stata regalata poi in qualche modo. Lo so, e poi chi l'ha presa l'ha riregalata. L'ha riregalata, esatto. E oggi c'è un'altra situazione che mi preoccupa. Tantissime imprese vendono all'estero senza averne bisogno. Non parlo delle imprese di difficoltà. Per sfiducia. È leader di mercato, penso alla Pirelli, penso alla Bene Equilibrati Talcementi, penso alla Luxottica, ma questi sono nostri gioielli che però si sono venduti all'estero forse per sfiducia. Per sfiducia, ma allora se i capitalisti, se gli uomini, se gli imprenditori non hanno fiducia nel paese... È andata. È finita. Diventa un problema. Senta, Presidente, Draghi ha detto una cosa che ha sorpreso un po' tutti l'altro giorno. Ha detto che la crisi in Europa è finita. Ma cosa vuol dire? Beh, alla lettera ha perfettamente ragione. No, alla lettera, ma siamo arrivati. No, perché siamo arrivati allo stesso livello di sviluppo degli Stati Uniti, leggerissimamente superiore nell'ultimo trimestre. Quindi europea, crescita europea. Europea, certo. Il problema grave è che l'Italia ha detto là dentro non c'è, certo. Ma lui Draghi parlava da europeo. Sì, da europeo, certo. Senta, Trump sarà azzuppato, come dicono i suoi avversari in America e in giro per il mondo, però in Arabia Saudita ha strappato affari d'oro per il suo paese, investimenti miliardari e fornitori di armi per 110 miliardi e ha anche fatto un discorso abbastanza chiaro e preciso ai leader che erano presenti all'incontro. Lei pensa che possa essere un presidente che sorprenderà? Beh, se usa la parola sorprenderà. No, sorprenderà naturalmente. ha già sorpreso abbastanza. No, ok, no, ma per adesso ha sorpreso tutto in negativo. Dicevo, potrebbe essere invece con questo approccio molto mercantile, ma anche molto chiaro. Eh beh, facete rischiosissime. Rischiosissime. Attenzione che sono buono anch'io di vendere armi all'Arabia Saudita. Sì. Ma la tensione provocata nel Medio Oriente, l'innalzamento delle frizioni come sta avvenendo è un gioco molto pericoloso. Ecco. Cioè lei dice, sta pensando all'Iran? Beh certo, questo è tutto un isolamento dell'Iran. L'Iran con cui gli Stati Uniti avevano fatto un accordo, che era un accordo molto importante anche, trionfalmente presentato, quindi è una strategia estremamente. Però il discorso sul terrorismo, il terrorismo è cosa vostra, dovete batterlo voi, è un cambio di marcia anche, però, no? Beh, cambio di marcia, voglio dire, mille volte si era fatto appello ai paesi arabi che si unissero nella lotta contro il terrorismo, fatta da Trump in Arabia Saudita, ha subito un vigore maggiore quindi è ben accetta. Sì. Ma attenzione. Diciamo che il problema con l'Iran è il problema numero uno di questo discorso. Ovvio, perché innalza ulteriormente la tensione fra sciiti e sunniti, fra diversi paesi, e quindi io credo che non ci interessa di nessuno. Aizzare gli uni contro gli altri. Ecco, lei ha sempre avvisato, ha sempre detto che senza la Russia e quindi senza Putin non ci sarà mai un nuovo ordine mondiale. Ecco, ma l'Europa l'ha capito questo? Cioè ha capito che Putin in qualche modo fa parte dell'Europa? Sì, escluso la Polonia e i Paesi Baltici, tutta l'Europa l'ha capito. Però l'Europa ha obbedito agli Stati Uniti. Cioè l'Europa, le sue divisioni, a cui ho fatto cenno adesso, non ha una politica estera, quindi si è adeguata alla politica americana. Ma può essere sempre così? Oppure anche questa idea di incominciare a pensare a un esercito europeo potrebbe dare un maggiore equidistanza, insomma? Ah, è la grande occasione di Macron, cioè la Francia che ha perso relativamente alla Germania un'enormità di cammino, l'unico modo per cui può di nuovo diventare co-leader europeo è proprio farsi protagonista del nuovo esercito, della costruzione del nuovo esercito europeo, anche perché è rimasta con l'uscita della Gran Bretagna l'unico paese con la bomba nucleare e l'unico paese col diritto di veto nelle Nazioni Unite. Certo. Ecco, Presidente, abbiamo detto prima, abbiamo parlato del rapporto fra l'Iran e gli Stati Uniti. Comunque ci sono state le elezioni in Iran e ha vinto Rouhani, che è importante, credo, una conferma che ha indotto infatti anche le prime reazioni al discorso di Trump, mi sono sembrate quasi sorvolare su quello che aveva detto. Proprio lei sta toccando quello che mi ha fatto molta impressione in questi giorni. L'Iran che nonostante questa divaricazione vota la parte relativamente più moderata. Naturalmente non prende questo come una situazione del tutto normalizzata, perché la parte più oltranzista, più conservatore, le guardie del regime, hanno un enorme potere economico, militare e politico in Iran. Ma ci può essere uno scontro a medio termine fra le due globalizzazioni, quella americana e quella cinese? Beh, il vecchio problema della guerra del Peloponneso, che la potenza, più delle volte c'è sempre stato scontro fra la potenza ascendente e la potenza leader, però io penso che in questo caso si possa evitare, anche se chiaramente la Cina sta salendo molto. Ecco. La proposta della via della seta, sì, è una proposta per legare Europa e Cina, ma è soprattutto una nuova grande politica regionale cinese. Certo. Ecco, senta, per chiudere, perché siamo in chiusura, verrà a Roma, incontrerà il Papa Trump. Lei si aspetta qualcosa da questo incontro? Ah, proprio non ho idea. Pagherei chissà che cosa per essere presente. Allora facciamo una scommessa su quanto dura l'incontro, secondo lei? Ma durerà parecchio. io sono sicuro che alla fine il Papa prometterà di pregare per lui, ma è quello che si diranno nella parte intermedia che mi piacerebbe capire. Grazie Presidente, 800 24 00 24 numero verde, 349 238 6666 sms pubblicità.